Poiché i discorsi di Norpois non lo avevano del tutto soddisfatto, Bloch abbordò l'archivista e gli chiese se Du Paty de Clam o Joseph Reynac non venissero qualche volta da Madame de Villeparisis. L'archivista non rispose. Era nazionalista e non si stancava di far la predica alla marchesa, dicendole che ci sarebbe stata presto una guerra sociale e raccomandandole maggior prudenza nella scelta delle sue relazioni. Pensò che Bloch potesse essere un emissario segreto del sindacato mandato a raccogliere informazioni e andò immediatamente da Madame de Villeparisis a riferirle le domande di Bloch. La marchesa decise che Bloch era, nella migliore delle ipotesi, maleducato e forse pericoloso per la posizione del signor di Norpois. E poi voleva dare soddisfazione all'archivista, che era il solo a insinuarle qualche timore e a tentare, sia pure senza grande successo, di indottrinarla. Ogni mattina le leggeva l'articolo di Joudet nel Petit Journal. Volle dunque far intendere a Bloch che non avrebbe dovuto tornare e non faticò a rinvenire nel suo repertorio mondano la scena mediante la quale una gran dama mette qualcuno alla porta, scena che non comporta affatto il dito alzato e gli occhi fiammeggianti che si sarebbe portati a immaginare. Quando Bloch le si avvicinò per salutarla, lei, sprofondata nella sua grande poltrona, parve uscire a metà da una vaga sonnolenza. Dai suoi sguardi smarriti non filtrò che il debole e affascinante lucore di una perla. I saluti di Bloch, se riuscirono appena a increspare le sue labbra in un languido sorriso, non le strapparono una sola parola, né tantomeno gli tese la mano. La scena ispirò a Bloch un indicibile stupore, ma poiché una cerchia di persone ne era tutto intorno testimone, stimò che non potesse prolungarsi senza creargli pregiudizio e per forzare la marchesa tese egli stesso quella mano che non gli veniva richiesta. Madame de Villeparisis ne fu sconvolta, ma siccome, pur volendo dare una soddisfazione immediata all'archivista e al clan antidreyfusista, teneva anche, senza dubbio, a cautelarsi per il futuro, si limitò ad abbassare le palpebre e a socchiudere gli occhi. «Mi pare che dorma», spiegò Bloch all'archivista, il quale, sentendosi sostenuto dalla marchesa, aggiunse un'espressione indignata. «I miei omaggi, signora!» gridò il mio amico. La marchesa accennò appena a muovere le labbra, come un moribondo che vorrebbe aprire la bocca, ma il cui sguardo non riconosce più. Poi si girò, traboccante di ritrovata vitalità, verso il marchese d'Argencure, mentre Bloch s'allontanava, persuaso che fosse rimbambita. Pieno di curiosità e intenzionato a chiarire un incidente così bizzarro, qualche giorno dopo tornò da lei. Madame de Villeparisis gli fece un'ottima accoglienza, perché era una brava donna, l'archivista non c'era, lo spettacolino che Bloch doveva procurarle le stava a cuore e, in fin dei conti, la parte di gran dama che desiderava recitare l'aveva recitata, suscitando l'ammirazione universale, e la sera stessa commenti in vari salotti, sebbene sulla base di una versione che aveva già perso qualsiasi rapporto con la realtà. «Stavate parlando, duchessa, delle sette principesse. Certo saprete, non è che io ne vada particolarmente fiero, che l'autore di quel, come dire, di quella cosa è un mio compatriota», disse il signor d'Argencure con un'ironia a cui si mischiava la soddisfazione di conoscere meglio degli altri l'autore di un'opera appena citata. «Sì, è belga di nascita», aggiunse. «Davvero? No. Non vi accuseremo certo d'avere qualche responsabilità nelle sette principesse. Fortunatamente per voi e per i vostri connazionali, non assomigliate per nulla all'autore di quell'insulsaggine. Conosco dei belgi piacevolissimi, voi, il vostro re, che è un po' timido ma pieno di spirito, i miei cugini Ligne e tanti altri. Ma per fortuna nessuno di voi parla la stessa lingua dell'autore delle sette principesse. Del resto, se vi interessa il mio parere, parlarne è già troppo perché proprio non esiste. e gente che si sforza di sembrare oscura e all'occorrenza non arretra di fronte al ridicolo, pur di nascondere un'assoluta mancanza di idee. Se sotto ci fosse qualcosa, vi direi che certe audacie non mi fanno paura, aggiunse in tono serio, a patto che ci sia anche del pensiero. Non so se avete visto la pièce di Borelli. C'è chi è rimasto sconvolto. Io, a rischio di farmi lapidare, continuò senza rendersi conto che non correva alcun pericolo del genere, confesso che l'ho trovata molto, molto curiosa. Ma le sette principesse, anche se una di loro usa dei favori a mio nipote, non posso spingere il mio senso della famiglia. La duchessa si interruppe bruscamente perché stava entrando una signora. Era la viscontessa de Marsan, la madre di Robert. Nel Faubourg Saint-Germain, Madame de Marsan era considerata un essere superiore, d'una bontà, d'una rassegnazione angeliche. Così mi era stato detto e non avevo in quel momento particolari ragioni per esserne sorpreso, non sapendo ancora che era la sorella del duca di Guermantes. In seguito non ho mai mancato di stupirmi nello scoprire come, in quell'ambiente, donne malinconiche, pure, votate al sacrificio, venerate alla stregua delle sante ideali ritratte nelle vetrate, fossero fiorite sul medesimo ceppo genealogico dal quale germinavano fratelli brutali, vili e dissoluti. Mi sembrava che fratelli e sorelle, qualora rivelassero una stretta affinità nei lineamenti, come il duca di Guermantes e Madame de Marsan, dovessero avere in comune un unico intelletto, un unico cuore, come una persona che può alternare momenti buoni e cattivi, ma dalla quale non ci si può certo attendere che abbia larghe vedute, se la sua intelligenza è limitata, né un'abnegazione sublime, se dura di cuore. Madame de Marsan seguiva i corsi di Brunetière. Non solo destava l'entusiasmo del Faubourg Saint-Germain, ma con la sua vita da santa lo edificava. Ciò nonostante, la connessione morfologica del bel naso e dello sguardo penetrante mi induceva a situarla nella stessa famiglia intellettuale e morale cui apparteneva il duca suo fratello. Mi rifiutavo di credere che il solo fatto d'essere donna e forse d'essere stata infelice e di godere della stima generale potesse renderla così diversa dai suoi, come nelle canzoni di gesta in cui tutte le virtù e le grazie si concentrano nella sorella di fratelli truculenti. Mi sembrava che la natura, meno libera degli antichi poeti, non potesse non utilizzare in misura quasi esclusiva gli elementi comuni alla famiglia, né riuscivo ad attribuirle una tale capacità di innovazione da costruire, con materiali analoghi a quelli che componevano un imbecille e un villano, una mente eccelsa senza alcuna tara di idiozia, una santa senza alcuna macchia di brutalità. Madame de Marsan indossava un vestito di surà bianco a grandi rameggi sui quali spiccavano neri fiori di stoffa. Aveva infatti perduto, 3 settimane prima, un cugino, il signor di Montmorency, il che non le impediva, seppure in lutto, di fare delle visite o di recarsi a qualche pranzo intimo. Era una gran dama. Per atavismo, il suo animo era colmo della frivolezza tipica delle esistenze di corte, con tutto ciò che esse hanno di superficiale e di rigido. Non aveva avuto la forza di rimpiangere a lungo il padre e la madre, ma per nulla al mondo si sarebbe messa addosso dei colori nel mese successivo alla morte d'un cugino. Con me fu più che gentile, perché, amico di Robert, non appartenevo al mondo di Robert. La sua bontà s'accompagnava a una sorta di finta timidezza, uno speciale, intermittente ritrarsi della voce, dello sguardo, del pensiero, che la sembrava richiamare a sé come uno strascico indiscreto per non occupare troppo spazio, per tenersi ben dritta, pur nella disinvolta scioltezza, come per escrivere la buona educazione. Buona educazione che, peraltro, non bisogna prendere troppo alla lettera, giacché parecchie di queste dame scivolano facilmente nella dissolutezza dei costumi senza mai perdere la correttezza quasi infantile delle maniere. Infastidiva un po' nella conversazione di Madame de Marsant che immancabilmente, quando il discorso cadeva su un plebeo, per esempio Bergotte e il Stier, lei dicesse, spiccando bene la parola, sottolineandola e salmodiandola su due toni diversi, secondo una modulazione caratteristica dei Germant, «Ho avuto l'onore, il grande onore, di incontrare il signor Bergotte, di conoscere il signor Elstir, o per fare sfoggio della sua umiltà, o indulgendo al gusto, che aveva anche il signor di Germant, di ripristinare forme desuete in segno di protesta contro l'abitudine imposta dalla maleducazione corrente di non dichiararsi mai abbastanza onorati. Fosse per l'una o per l'altra di queste due ragioni, è un fatto che, quando Madame de Marsan diceva «Ho avuto l'onore, il grande onore», si percepiva la sua convinzione di svolgere così un ruolo importante, mostrandosi capace di accogliere i nomi degli uomini di valore come li avrebbe ricevuti in carne e ossa nel suo castello se si fossero trovati nei paraggi. D'altra parte, poiché la sua era una famiglia numerosa e lei l'amava molto, e lenta nell'esprimersi, incline alle delucidazioni, teneva a chiarire bene le parentele, si ritrovava, senza alcun desiderio di sbalordire, e a dispetto del fatto che le sarebbe sinceramente piaciuto parlare solo di contadini commoventi e di guardiacaccia sublimi, si ritrovava a citare ogni momento tutte le famiglie d'Europa con benefici feudali, cosa che le persone meno brillanti stentavano a perdonarle, e se erano un po' intellettuali irridevano come indizio di stupidità. In campagna, Madame de Marsant era adorata per il bene che faceva, ma soprattutto perché la purezza di un sangue nel quale, da molte generazioni, si raccoglieva soltanto quel che c'è di più grande nella storia di Francia, aveva depurato i suoi modi di ciò che la gente del popolo chiama complimenti, dotandola di una perfetta semplicità. Non esitava ad abbracciare una povera donna infelice, dicendole d'andare al castello a farsi dare un carro di legna. Era, dicevano, una perfetta cristiana. Avrebbe voluto per Robert una moglie smisuratamente ricca. Essere una grandama vuol dire impersonare la grandama, cioè, fra l'altro, calarsi nella parte della semplicità. È una parte che esige un prezzo elevatissimo, anche perché la semplicità seduce solo a patto che gli altri sappiano che potreste non essere semplici, insomma, che siete molto ricchi. Più tardi, quando raccontai d'averla vista, mi dissero: «Vi sarete reso conto che è stata una donna affascinante». Ma la vera bellezza è così particolare, così nuova, che non la si riconosce per tale. Quel giorno pensai soltanto che aveva un naso piccolissimo, degli occhi molto azzurri, il collo lungo e l'espressione triste. «Senti», disse Madame de Villeparisis alla duchessa di Germain, «credo che fra poco verrà a trovarmi una donna che tu non vuoi conoscere. Preferisco avvisarti subito perché la cosa non ti infastidisca. Del resto puoi stare tranquilla, non la vedrai mai più a casa mia. Viene soltanto oggi, per la prima e ultima volta. È la moglie di Swann».